لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي يا اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي يا اخي لن تختفي يا اخي لا يتخلد اسمك في غزتي يا اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم على الايادي من الايادي بساعد محم الموت قلبه طابق بالصوت عبو رافض السكوت وصاحب علم الصوت اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خاطر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى الحب رمز ايماني بالحق رمز ارادة الشعب احكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف في توريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي في توريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض انا بيع الهوية سجل سجل سجل انا من العرب اللي عندهم تساؤلات انا من العرب اللي عندهم تخبطات براس الصفحة الاولى جملة العروبة مش رخصة e 19:38 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default andiamo in onda con la nuova puntata di Radio Cufia la trasmissione di aggiornamento analisi dalla Palestina occupata e sulla Palestina occupata e anche questa settimana andiamo in onda con il nostro consueto giornale radio e, innanzitutto ricordiamo i contatti della radio www.radiodefault.it da cui potete trovare il playerino per ascoltarci o essere aggiornati sulle nostre prossime iniziative che si svolgono. Tra l'altro stasera ricordiamo alle 21:30 la trasmissione, la proiezione di Pom Poco, l'ultimo cartone del ciclo anime e manga che si svolge qua in radio sui film di Miyazaki e questa appunto è l'ultima edizione, venite, troverete vari stuzzichini ad accogliervi e, insomma alle 21:30 qua. Inoltre ricordiamo la nostra pagina Facebook, Radio Default, in cui potete trovare gli aggiornamenti in tempo reale su ciò che sta trasmettendo questa radio. E quindi iniziamo con il nostro giornale radio, Oggi ci siamo dimenticati la nostra consueta colonna sonora, quindi dal canale SoundCloud di Musica Libera passiamo l'ultimo CD dei Dem, Dabka on the Moon. E cominciamo con le notizie dalla Palestina in generale. L'OLP potrebbe riconoscere lo Stato ebraico. Nabil Amro, membro del Comitato Centrale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha dichiarato che esiste la possibilità che la dirigenza palestinese riconosca l'entità sionista come uno Stato ebraico. Il funzionario ha aggiunto che la mozione di riconoscimento deve essere presentata in una forma accettabile dagli Stati Uniti e dovrà essere vagliata da un referendum popolare. Ciò comprometterebbe sia il diritto di quasi 5 milioni di palestinesi a ritornare ai propri villaggi da cui vennero cacciati nel 1948, sia sancirebbe l'inferiorità legale di oltre il 20% degli abitanti della cosiddetta Israele, non appartenenti alla religione ebraica. E i negoziati non placano la violenza dell'occupazione. Il Dipartimento per i negoziati dell'OLP ha diramato un rapporto in cui enumera le violazioni sioniste intercorse dall'inizio dei negoziati lo scorso agosto. Secondo il rapporto, negli ultimi 7 mesi si sono registrate 44 uccisioni, 808 feriti, 2702 arresti e innumerevoli altre forme di violenza sia da parte dell'esercito che da parte dei coloni. Inoltre è stata annunciata la costruzione di oltre 10.000 nuove abitazioni nelle colonie della West Bank, illegali secondo il diritto internazionale. Insomma, l'OLP si è dato la risposta: quanto ci metterà a porsi la domanda? Ovvero, quanto sono utili i negoziati per placare le sofferenze del popolo palestinese? E passiamo a Gerusalemme, dove è stata annunciata la chiusura di 30 scuole. E ho beccato direttamente la fine della traccia. Le autorità dell'occupazione hanno annunciato di voler chiudere una trentina di scuole private di Gerusalemme Est, a meno che esse non paghino una multa di circa $1 milione. La ragione ufficiale è che gli istituti, sebbene dovrebbero ricadere sotto l'ordinamento palestinese, non hanno pagato le tasse dovute all'autorità d'occupazione. Sahil Mohammed Ali, direttore della Quds Arab Al-Furqan School, ha dichiarato invece che il motivo reale è che il fatto è che queste scuole adottano un corso di studi palestinese, utilizzando libri di testo dell'ANP piuttosto che quelli degli occupanti. Gerusalemme Est, che dovrebbe ricadere sotto la sovranità palestinese, da anni ormai è oggetto di una politica razziale di giudaizzazione che dal 67 ha portato alla cacciata di innumerevoli abitanti originari della città, nonché il deterioramento delle condizioni economiche di coloro rimasti all'interno della municipalità. E passiamo alla West Bank, a Ramallah, dove i coloni rubano 700 alberelli d'ulivo. Gli abitanti di Al-Zahrat hanno dichiarato lo scorso 19 febbraio che numerosi coloni hanno invaso i loro oliveti, sradicando più di 700 alberelli per rubarli. Gli abitanti hanno dichiarato di aver ritrovato le carte d'identità di uno degli aggressori, un colono proveniente dall'avamposto di Etihad, e che questa è la seconda volta che viene fatto un attacco del genere alle nuove piantagioni finanziate da un progetto del Ministero dell'Agricoltura palestinese. E passiamo ad Al-Khalil, Hebron, dove migliaia manifestano per ricordare il massacro della moschea di Ibrahim. Venerdì scorso migliaia di palestinesi ed alcuni attivisti internazionali hanno svolto un corteo per commemorare il 20° anniversario del massacro della moschea di Ibrahim e per chiedere la riapertura della centrale Shuada Street. Il corteo è stato attaccato dall'imponente dispositivo di sicurezza sionista, che non ha esitato a sparare proiettili di gomma, ferendo 13 persone e arrestando 5 attivisti. Al-Khalil è stata la sede della prima colonia di carattere religioso nel 1967, e a oggi circa 500 coloni occupano il centro della città, scortati da ingenti truppe dell'esercito. Nel 94 uno di questi estremisti, pesantemente armato, attaccò la moschea di Ibrahim uccidendo 29 palestinesi. Da allora l'esercito, per evitare ritorsioni, ha chiuso la centralissima Shuada Street, la principale arteria viaria e commerciale della città, al passaggio degli autoctoni palestinesi. E passiamo a Bir Zeit, dove ci sono stati scontri oggi tra i palestinesi e l'occupazione dopo l'uccisione di un ragazzo. Questa mattina sono scoppiati dei violenti scontri tra i giovani palestinesi e le truppe d'occupazione nel centro della città di Bir Zeit. La resistenza è nata dopo l'uccisione di Motaz Washa, giovane militante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che si è rifiutato di aprire la porta ai soldati venuti ad arrestare il fratello. E passiamo alla striscia di Gaza, dove sono 17 i feriti dopo una manifestazione al confine. Venerdì 14 febbraio i giovani palestinesi si sono recati alla recinzione di confine nel nord della striscia per protestare contro l'embargo illegale posto dal 2007 contro i quasi 2 milioni di abitanti dell'enclave costiera. Le forze d'occupazione hanno risposto sparando lacrimogeni e pallottole, ferendo 17 persone. E passiamo alle carceri, dove più di 200 sono i palestinesi detenuti in detenzione amministrativa. L'associazione Solidarity Foundation for Human Rights ha dichiarato che in seguito alle retate ormai quotidiane delle forze d'occupazione, il numero dei prigionieri in detenzione amministrativa ha superato le 200 unità, il 90% dei quali sono o prigionieri appena rilasciati oppure dirigenti di gruppi politici. La detenzione amministrativa è un istituto giuridico risalente al mandato coloniale britannico che permette di carcerare le persone per 6 mesi, prorogabili all'infinito, senza alcuna prova di imputazione, per il solo sospetto di costituire una minaccia all'ordine pubblico. E pubblicato un rapporto sui prigionieri arabi e palestinesi nell'entità sionista. La Lega Araba ha pubblicato un rapporto sui prigionieri palestinesi ed arabi attualmente detenuti dall'entità sionista. Secondo il rapporto, commissionato dal segretario generale della Lega, sono più di 5.000 i prigionieri palestinesi, vittime di ripetute violazioni ed abusi dei loro diritti umani e della loro dignità. A questi si aggiungono decine di individui cittadini di altri paesi arabi. Dal 67 più di 650.000 palestinesi hanno conosciuto le carceri dell'occupazione, circa il 20% della popolazione totale e circa il 40% degli uomini che abitano nei territori occupati. فجأة بركات سيارة بينزلوا منها خمسة أربع أولاد عمها نضم لهم صاحب التاكسي ما بقى لاقول غير لما تشعر انك مظلوم ببلادك. E passiamo all'entità sionista, dove è stato trovato morto un collaborazionista palestinese. Lo scorso sabato è stato trovato morto un cittadino palestinese dell'entità sionista in un cantiere edile di Rehovot. La vittima è un 34enne che aveva ricevuto la cittadinanza israeliana dopo aver fatto il collaborazionista per lo Shin Bet, il servizio di intelligence interno sionista. Il collaborazionista, di cui non è stato reso noto il nome, è stato ucciso con dei colpi d'arma da fuoco sparati a bruciapelo nello stomaco, per poi essere colpito all'estremità del corpo. E l'occupazione prova a dividere i palestinesi cristiani da quelli musulmani. Il Parlamento sionista, la Knesset, ha approvato una nuova legge per creare la nuova cittadinanza cristiana per i cittadini palestinesi di Israele. La nuova categoria è diversa da quella già esistente della nazionalità araba ed ha sollevato dei timori tra numerosi palestinesi che la ritengono una mossa dello Stato sionista per dividere la loro società in settori religiosi. Il parlamentare del Likud, Yariv Levin, ha dichiarato che questo è un momento storico che permette di collegare gli ebrei ai cristiani, da lui non considerati degli arabi, bensì dei naturali alleati contro i musulmani. I timori dei palestinesi sono ancora più fondati, visto che una commissione parlamentare sta studiando un disegno di legge che estenda la leva militare obbligatoria anche per i cristiani, finora esclusi come tutti i palestinesi tranne i drusi. E passiamo agli esteri, alla Siria, dove sono giunti gli aiuti umanitari nel campo profughi di Yarmouk. Filippo Grandi, dirigente dell'UNRWA, agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, ha annunciato di aver consegnato personalmente gli aiuti umanitari agli abitanti del campo profughi di Yarmouk, un quartiere di Damasco tenuto sotto assedio per svariati mesi dalle milizie del regime di Bashar al-Assad. Grandi ha dichiarato che all'arrivo dei camion sono apparsi come dei fantasmi centinaia di palestinesi, che riuscivano a malapena a parlare e a raccontare le loro storie di estrema deprivazione. Per il gruppo di lavoro per i palestinesi in Siria, il 22 febbraio la conta dei morti palestinesi era giunta a 2072, un numero già ingranditosi negli ultimi 5 giorni, ed aveva elencato più di 20 cause di morte, anche se le vittime maggiori sono avvenute a causa dei bombardamenti e dei cecchini del regime. Il 17 febbraio, invece, era morto un altro profugo, Mahmoud Muhammad Mawid, ucciso dalle torture inflittegli dai carcerieri di Assad durante 5 mesi di prigionia. E passiamo alla Giordania, dove è stata votata l'espulsione dell'ambasciatore sionista. Il Parlamento giordano ha votato l'espulsione dell'ambasciatore israeliano dalla Giordania e ha ritirato il proprio ambasciatore da Tel Aviv. Il voto giordano è stata una risposta al disegno di legge discusso dal Knesset israeliano che imporrebbe la sovranità israeliana sulla moschea di Al-Aqsa e sui luoghi santi di Gerusalemme. Le discussioni del Knesset hanno fatto infuriare la Giordania, che ha il compito di tutelare i luoghi sacri di Gerusalemme, come previsto dal trattato di pace con Israele del 1994, oltre all'accordo firmato dal re giordano Abdallah II e il presidente dell'OLP Mahmoud Abbas, riguardante la tutela di quei luoghi. الماضي ملطخ بدم وعيون الدم بس وعدكم من الجريمة للولادة وجوههم خاطب كأنه خبروهم جريمة اجتكم بنا البداية e passiamo a Lussemburgo, dove un fondo pensione boicotta le banche sioniste. Il Fondo Pensioni del Lussemburgo ha deciso di boicottare le cinque principali banche sioniste, più numerose altre società di investimento, a causa del loro coinvolgimento nella costruzione delle colonie illegali nella West Bank occupata. Il rapporto, pubblicato dall'agenzia sionista Walla News, elenca dettagliatamente tutti i gruppi economici boicottati dal fondo di investimento, tra cui l'italiana Finmeccanica. ليش بنفخر بالماضي متجاهلين الحاضر ليش لجلادي لازم اقول حاضر ليش شرف العيلة واقف على البناء باطل ليش القانون كان معجون للاجانب والنحائط ليش يقنعوني ما تدخلش بالسياسة ولما هدمولي فقروني قولولي هاي السياسة ليش نبعت الولد يتعلم اذا برجع معلم ملمس بنستغربني تعجب ليش ما عم يتقدم ليش الحدود بالشام إذا كنا بالضاد نبوح ليش فيش كمان طوفان ليش فيش كمان نوح ليش واحد من الضباط الأحرار زرك الملك فاروق ليش معلم قادر نقول الحق على اليهود ليش أخطوا جدادنا يواجهوا الدبابات مع E non sappiamo ancora usare un browser. مش بكيفة ليش الجمهور مش عائدي لحيفة بل لهيفة ليش الفن هون بتقوقع لتنوع لتمتع وإذا مدخولك الشعري واضح ليش في توقع عجيب بطل ليه بيضيعوا علينا الرصاص إذا الفتح والحماس أيمن بالواجب وبلاش ليه ليه سلبت لي الفلافل وليش ليش الجاي راح يسبب لي مشاكل ليه بنفضل نبني معابد أكتر من مدارس ليش مش حاسس إني قلت غلط للأسف حقول آسف ليه بيجيبوني بهوليوود بس كإرهابي بأفلام ليه بيجيبوا بس بن لادن ما بيجيبوا عبد الباري عطوان ليه روتانا ما بيهتم فن في مبادئ ليه روتانا مهتم إذا فني في مبادئ وليه أقول أصلي بتكلمش بالسياسة وليش الزعيم أصبح شاهد ما شافش حاجة E sono le 19:59 minuti primi, si conclude anche oggi la nostra il nostro giornale radio settimanale sulla Palestina occupata. Noi ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it per avere aggiornamenti sulle nostre iniziative, e Radio Default su Facebook per essere aggiornati in tempo reale su ciò che sta trasmettendo la nostra radio. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Vi ricordiamo che questa trasmissione è gestita dall'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani, che ha un blog castellialapalestina.noblogs.org, in cui potrete trovare altri articoli di aggiornamento ed analisi, oltre alle repliche di questa trasmissione. Quindi noi vi salutiamo definitivamente, vi ricordiamo che fra un'ora e mezza andrà in onda in radio l'ultimo appuntamento con la rassegna di Cineforum Anime, quindi appuntamento alle 21:30 con Pompoco di Miyazaki. Noi vi auguriamo buona libertà a tutte e a tutti, in Italia come in Palestina e come ai Castelli Romani. بتعصب الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي